Sì, pronto? Adam Zani? This is a certified request. Questo non va. Porca miseria. Omosessuale. Tu. No. Tu. Facciamo. Omosessuale. Dai, guarda, facciamo. Parliamo di fortuna. Fortuna qua, non potevo. No, no, no, no, domani. Domani è fortuna. 4:30. 5:30. Possiamo fare il mio disco? Sì. Quanto carino, no? Allora, oh, andiamo a danzare. Sentiamolo, vai. È un fanboy. Anche io. Perfetto.